Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. E ben ritrovati, questa è Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che guarda al mondo di tutti gli animali, umani e non. Oggi parleremo della Giornata Mondiale della Natura Selvatica e l'ONU lancia un allarme importante di nuove farine alimentari prodotte da insetti. In alcune regioni d'Italia cresce la possibilità che i propri animali da compagnia, cani e gatti, possano essere sepolti con i propri padroni. Certificati medici per mangiare vegano e vegetariano nelle mense e negli ospedali? Vi diamo qualche aggiornamento. Infine vi parleremo di due sentenze storiche, una riguarda la condanna ad Amadori e un'altra legata al processo di Green Hill. Il tutto come sempre verrà squisitamente condito dalla ricetta del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni e accompagnato da un'elegante e ricercata scaletta musicale curata dal nostro geniale Giuseppe Coco. Marzo si è celebrata una giornata molto importante per gli animali selvatici e la biodiversità. Sostenere tutta la vita sulla Terra è stato lo slogan di quest'anno del World Wildlife Day, istituito dall'ONU 7 anni fa. Scopo della giornata, sostanzialmente, è stato quello di sensibilizzare sull'importanza e sulla necessità di preservare la biodiversità in tutto il mondo. Man mano che la nostra popolazione e le nostre esigenze continuano a crescere, ha spiegato il segretario generale ONU Antonio Guterres, continuiamo a sfruttare le risorse naturali, comprese le piante, gli animali selvatici e i loro habitat, in modo insostenibile. Sfruttando eccessivamente la fauna selvatica, gli habitat e gli ecosistemi, l'umanità sta mettendo, continua sempre il segretario generale ONU, sta mettendo in pericolo sia se stessa che la sopravvivenza di innumerevoli specie di piante e animali selvatici. L'edizione 2020 ha posto dunque l'accento sulla necessità urgente dei governi e della società, sia nella componente pubblica che in quella privata, di intraprendere azioni volte alla tutela della fauna selvatica affinché ne sia garantita la sopravvivenza nel tempo. Come ha ricordato sempre il segretario dell'ONU, infatti nonostante la flora e la fauna selvatica siano vitali per il nostro benessere, è proprio l'azione di sfruttamento dell'uomo a costituire la principale minaccia alla loro sopravvivenza. E difatti quasi un quarto di tutte le specie sono attualmente a rischio di estinzione nei prossimi decenni. Mentre l'ONU celebra la Giornata Mondiale della Biodiversità richiamando lo slogan «Sostenere tutta la vita sulla Terra», un team di ricercatori sta studiando come spremere altri animali come gli insetti per cercare di estrarre farine proteiche. Il centro ricerche Enea della Trisaia, in provincia di Matera, sta sperimentando infatti come ottenere nuove farine ad alto valore proteico dagli insetti. Il team di ricercatori è riuscito ad allevare con scarti alimentari e cerealicoli un insetto noto come la tarma della farina, al fine di ricavarne farine proteiche, appunto, utili per la produzione di mangimi animali, ma anche nuovi prodotti per l'alimentazione umana, il cosiddetto novel food. L'allevamento di insetti, dichiarato l'entomologo Enea Ferdinando Baldacchino, con sottoprodotti dell'industria agroalimentare, risponde pienamente ai principi dell'economia circolare. Partendo quindi dalla crusca, dichiara sempre Baldacchino, l'alimento principale della tarma, della farina, siamo riusciti ad ottenere nuovi prodotti dal maggior valore aggiunto. Enea ci tiene inoltre a sottolineare come la tarma della farina sia un coleottero da cui è possibile ricavare anche mangimi per l'iticoltura, in sostituzione delle farine di pesce e di soia. È interessante analizzare le parole citate poco fa da Baldacchino: economia circolare, prodotti e sottoprodotti. Dunque, l'economia circolare, in quanto otterrebbe l'alimento grazie a degli scarti, giustificherebbe l'allevamento di altri animali, ovvero gli insetti. In secondo luogo, questi insetti, questi animali, vengono con nonchalance catalogati come prodotti, cioè non appartengono definitivamente più alla sfera del vivente e del regno animale. Ma quando l'ONU celebra la Giornata Mondiale della Biodiversità con lo scopo di sostenere tutta la vita sulla Terra, vogliamo però chiederci realmente di quale vita stiamo parlando? Like a flame that seeks explosives, as gunpowder needs a war, I feast inside you, my hostess, you. Ooh. Noi omaggiamo davvero la Giornata Mondiale della Biodiversità non portando nessun essere vivente sulle nostre tavole, tantomeno insetti. E per questa puntata il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore tra l'altro del libro La cucina regionale vegana italiana, edizione Newton Compton, si è ingegnato nel trovare una ricetta molto particolare. Vi ricordiamo inoltre che tutte le sue ricette sono consultabili sul nostro sito www.restiamoanimali.it. Sia in forma scritta che anche in podcast. Sentiamo allora che cosa ci ha preparato Gabriele Palloni. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. E se in occasione del World Wildlife Day si parlerà di sostenere e rispettare la biodiversità, noi ragazzi di 1000 mesi, cresciuti al ritmo di Wild Boys, non possiamo che unirci al coro con la ricetta di un piatto simbolo degli anni 80, le pennette alla vodka. Gli ingredienti per 4 persone sono 4 cipolle dorate, 300 g di passata di pomodoro, un peperoncino, un bicchiere di vodka, 50 ml di latte di soia non zuccherato né aromatizzato, 80 ml di olio di semi di girasole, del prezzemolo tritato, dell'olio extravergine di oliva e sale. Sbucciate le cipolle e tritatele. Quindi fatele scottare con poca acqua in una casseruola e quando il liquido sarà evaporato aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine ed il peperoncino. Fate soffriggere qualche minuto, aggiungete il pomodoro, aggiustate di sale e fate ritirare a fuoco molto lento fino a quando la polpa sarà ben concentrata. A parte, scaldate la vodka in un pentolino e, facendo attenzione, fatele prendere fuoco. Non fatela evaporare tutta e versatela nella salsa di pomodoro. Nel bicchiere di un frullatore ad immersione unite il latte di soia all'olio di semi, quindi emulsionate per un minuto. Versate la crema ottenuta all'interno della salsa. Aggiungete il prezzemolo tritato e fate ritirare a fuoco molto lento ancora qualche minuto. Nel frattempo lessate la pasta, del tipo pennette, scolatela bene al dente e fate saltare nella salsa. Servite con del prezzemolo tritato e non dimenticate di indossare una giacca con gli spallini imbottiti per portarla in tavola. Come gesto scaramantico, questa settimana ho scelto tutta musica che ha come protagonista il virus. Perché da qualche giorno, visto paure, ammonimenti e restrizioni, mi è tornato in mente un motivetto del 1986 che cantava Laurie Anderson, ovvero Language is a virus. Il testo un po' ci fa riflettere su come il linguaggio diventa virale, e non solo il linguaggio, ma anche quello che viene detto, che è un po' quello che stiamo vivendo in questo periodo. Mentre per i brani ho scelto Bjork, William Burroughs e affini, insomma, scopritelo voi tra un servizio e l'altro, lo stacchetto musicale dedicato ai virus. Paradise is exactly like where you are right now. Saw this guy in a train, and they seemed to have gotten stuck in one of those abstract chances. And he was going, and Fred said, I think he's in some kind of pain. I think it's a pain cry. And I said, pain cry? Then language is a virus. Language, it's a virus. Talking to a friend, and I was saying I wanted you, wanted you, and I was looking for you, but I couldn't find you. I couldn't find you. And he said, hey, you talking to me? Are you just practicing for one of those performances of yours? Huh? It's a virus. Tell the judge that it was you. And I had to sell the car and go to Florida, because that's just my way of saying that I love you. Had to call you at the crack of dawn and list the times that I've been wrong. That's just my way of saying that I'm sorry. It's a job. Sorry. Language, it's a virus. See you. Cause everybody on the island was saying, look at me, look at me, look at me, look at me, why? Because they are on an island, the laws of the seas. And everybody on the island was somebody from TV. And there was a beautiful view, but nobody could see. Is exactly right where you are right now, only much, much better. Continuiamo a parlare di cibo e non per deliziarvi ancora con altre ricette, ma per darvi un piccolo aggiornamento legato al rischio di dover presentare un certificato medico per poter mangiare negli ospedali e nelle mense scolastiche prodotti che non derivano dallo sfruttamento degli animali. Ve ne avevamo accennato qualche puntata fa in seguito alla proposta contenuta nelle nuove linee di indirizzo dei Ministeri della Salute e dell'Ambiente per la ristorazione scolastica e ospedaliera. Decisamente un modo per scoraggiare le scelte alimentari vegane e vegetariane sempre più diffuse tra gli italiani, fissando l'obbligo di certificazione medica per poter avere un pasto in una mensa scolastica, in un ospedale o in un ricovero per anziani. Questa proposta, si legge sul sito internet della Lega Antivivisezione, smentirebbe quanto avvenuto fino ad oggi con le attuali linee guida ministeriali che fin dal 2010 e con una nota chiarificatrice emanata nel 2016 stabiliscono che, non essendo una malattia la scelta etica e culturale vegana o vegetariana di una persona, di una famiglia, così come le scelte alimentari e religiose, non è sindacabile né attestabile da un medico. A distanza di giorni abbiamo cercato di capire a che punto siamo, ma pare che fortunatamente per ora sia tutto fermo. Sul sito vegolosi.it leggiamo che in seguito a un colloquio della dottoressa Luciana Baroni, presidente della Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana, col direttore dell'ufficio 5, ovvero Nutrizione e Informazione ai Consumatori del Ministero della Salute, il dottor Giuseppe Plutino, è emerso che continuerà a essere rispettato il diritto di scegliere il proprio menù per motivazioni etiche, culturali e religiose, senza bisogno di certificati medici. Il dottor Plutino, si legge ancora su vegolosi.it, ha affermato che continuerà a valere il principio espresso nelle linee guida sulle mense del 2010, cioè vanno assicurate anche adeguate sostituzioni di alimenti correlate a regioni etico-religiose o culturali. Noi comunque rimaniamo in attesa di una nota ufficiale. Nel frattempo vi invitiamo a sottoscrivere la petizione lanciata su change.org che trovate digitando liberi di scegliere veg. Word begets image, and image is virus. Word begets image, and image is virus. Is virus. And image is it. Word begets image, and image is virus, and is. Word begets image, and image is virus. Word begets image, and image is virus. Is virus. And image is it. Word begets image, and image is virus, and is. Image, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big epic image, image, epic is. I gatti ormai sono sempre più presenti nelle nostre vite e sono sempre più considerati a tutti gli effetti membri della famiglia. Da tempo c'è chi chiede che anche loro, una volta finita la loro vita terrena, vengano sepolti con le persone che hanno condiviso con loro parte di questa vita. Ed è proprio in questa direzione che in Liguria è stata approvata all'unanimità una proposta di legge in Commissione Salute e Sicurezza con primo firmatario il consigliere Movimento 5 Stelle Fabio Tosi. Oggi in Liguria c'è solo un cimitero per la sepoltura di animali. In provincia di Savona, la proposta di legge prevede di consentire, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi, l'inumazione previa cremazione e in urna separata delle ceneri degli animali d'affezione nella tomba del padrone, con cui hanno condiviso la loro esistenza. L'iter in realtà non è ancora concluso e ora resta il passaggio in consiglio regionale. Parallelamente anche la Sicilia si sta muovendo in una direzione simile con l'approvazione di un emendamento che ha dato il via libera alla sepoltura degli animali domestici nei cimiteri. Si discuteva difatti da tempo all'idea di dedicare delle aree cimiteriali alla sepoltura a cani e gatti e ora saranno possibili grazie a un emendamento presentato dalla deputata regionale Giusi Savarin. Non sono chiare ancora le modalità con cui questo avverrà e come si dovranno adeguare i cimiteri attuali alle nuove normative. Molto probabilmente verranno individuate delle aree all'interno delle attuali strutture che saranno dedicate agli animali domestici e qui sarà possibile effettuare la sepoltura. قول وبخيالي سايق فوق مليون اسطول قائد مجالي كعبي عالي واللي يقول يقول فيروس في الدماغ اسمي محفور في العقول انتوا عملتوا فيها دراكولا وانا اتحولت الغول فكر بس مفتكس بيرقص في الناس بتحفظ بدرس مش بنجح وخلاص وسط الحروب مش يدوب عملنا لكم اهتزاز كل اللي فات خلاص شغلنا الاستفزاز حل مش هحل مستغل اي غلطة ليكو ضربت ضربة غل نورت كشاف عينيكو ما تجيش تعيشها عاللي كان فيهم حافظ ماضيكو ضربت سن ابرة فرقعت اتخن ما في. Chiudiamo la puntata con due notizie notevoli. Intanto rubare animali per salvarli da maltrattamenti non costituisce reato. Questo è il verdetto della Corte d'Appello di Brescia che il 4 marzo ha assolto tutti gli attivisti che il 28 aprile del 2012 liberarono alcuni beagle dall'allevamento Green Hill, dando il via alla più grande liberazione di animali destinati alla vivisezione mai vista. I giudici hanno infatti stabilito che il gesto degli attivisti non è equiparabile a un furto in abitazione, come era stato deciso in appello. La liberazione dei beagle non è stato un gesto premeditato, e non ha portato un vantaggio agli attivisti. Si è trattato quindi di un atto compiuto per salvare gli animali dai maltrattamenti e non per impossessarsene indebitamente. Ricordiamo che fu proprio grazie a quell'azione che alla fine vennero condannati i vertici e il veterinario di Green Hill, che per chi non lo sapesse è l'allevamento di cani a Montichiari, in provincia di Brescia, di beagle destinati alla sperimentazione animale, sequestrato poi nel 2012. Ritenuti colpevoli dei maltrattamenti e delle uccisioni verificatesi in quella struttura. When every good thing fades and wastes by all the jealousy. Da una sentenza storica passiamo a un'altra sentenza che merita attenzione. Chi non conosce Amadori, una delle maggiori aziende agroalimentari in Italia specializzata nel settore avicolo? Ebbene, il rappresentante legale di una società controllata da Amadori e il custode responsabile di un allevamento intensivo di maiali sono stati condannati per uccisione, maltrattamento e abbandono di animali. Il tutto in seguito al patteggiamento nel procedimento penale nato a Forlì a seguito della presentazione di un'esposta denuncia da parte di ENPA, con la collaborazione di Animal Equality, nei confronti dell'azienda Amadori nell'agosto del 2016. Nella sentenza emessa dall'ufficio GIP del Tribunale di Forlì viene evidenziato come il rappresentante legale della società controllata al 100% da Amadori perseverasse nel mantenere condizioni di allevamento tali da ingenerare negli animali inutili sofferenze. Le scrofe in fecondazione e gestazione erano tenute in gabbie troppo piccole, non adeguate alla stazza degli animali, che non consentivano di potersi girare su se stesse o coricarsi completamente, o ancora difendersi da mosche o topi, e che cagionavano inutili sofferenze e lesioni. Gli animali poi venivano sottoposti a condizioni insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, cagionandogli sofferenze non necessarie e in alcuni casi anche la morte. Il gruppo Amadori, si legge in una nota, rimane fermo però nella propria convinzione di avere sempre operato nel rispetto delle normative vigenti. E il fatto che il processo si sia concluso col pagamento di una multa e di un'ammenda è l'ulteriore conferma del fatto che le condotte, sempre secondo Amadori, che le condotte abbiano avuto carattere occasionali e che nessun pericolo o danno ulteriore sia emerso da esse. Insomma, forse non una grande vittoria, ma senza dubbio un bel danno d'immagine per un'azienda come Amadori. Oggi è davvero tutto, almeno per questa settimana. Vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Roberta Marino, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Camilla Lattanzi e Francesca De Matteis, la voce che vi ha tenuto compagnia. L'appuntamento con la puntata numero 527 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.